Allora, per esempio, io sto in vetrina. Quando prendo il caffè e bevo una birra e mi siedo al mio bar, Marani, e mi guardo intorno, atteggiamento tranquillo, attitudine seria. Sembro uno arrivato. Sembra che ce l'ho fatta. Ma chi ce l'ha fatta? Non sta in questo posto, non entra nel bar. Chi sta qui seduto, chi c'è in queste strade, è gente normale e che se la gode, come me, come te, senza essere nessuno. Io non sono nessuno e sto in vetrina, perché se ero qualcuno ora mi nascondevo, dietro vetri fumé, proprio qui, dietro a te. Che paura, eh? Ora mi nascondevo, dietro vetri fumé. Dietro a te, dietro a te. Che paura, eh? Siamo gente normale e che se la gode come me, come te, senza essere nessuno. Noi non siamo nessuno, ma siamo al mio bar a bere una birra. Atteggiamento tranquillo, attitudine seria, non abbiamo paura. Siamo gente normale, non facciamo paura. Siamo tranquilli, normali, senza pretese, come me. Come te, proprio qui, dietro a te. E questa invece... Grazie. L'ho scritta io, stanno in un libro, libricino che si chiama Coltellate, per citare un altro scrittore sanlorenzino, Serciate, di Vinicio Pizzalis, che molti di voi conosceranno sicuramente. Questa invece è una storia di una bomba, perché io sono nato a San Lorenzo e uno degli episodi che ricordo con più vivacità è stata la bomba che è stata messa alla radio nell'82, mi pare, che mi svegliò nel cuore della notte. Da quel momento la radio è entrata nella mia vita e spesso la incrocio. E anche questa è una storia che parla di bombe. Con l'avanzare della buona stagione, le incursioni aeree sulle città italiane si moltiplicarono, via via più furiose, e i bollettini militari, per quanto recitassero la parte dell'ottimismo, accusavano ogni giorno distruzioni e stragi. Roma, tuttavia, veniva risparmiata. Ma la gente, oramai snervata e impaurita dalle notizie strane che correvano dovunque, incominciava a sentirsi meno sicura. Le famiglie possidenti si erano trasferite in campagna e i rimasti, la grande folla, incontrandosi in strada, sui tram, negli uffici, si guardavano in faccia tra loro, anche tra sconosciuti, tutti con la stessa assurda domanda nelle pupille. Ma quando casca sta bomba? Ida, alla prima voce della sirena, immediatamente era presa da un panico disordinato, come un meccanismo che corre in folle per una discesa, e sia che si trovasse sveglia o addormentata, in qualsiasi momento al precipizio si agganciava sul corpo il busto, in cui sempre teneva i suoi risparmi, e preso in collo il figlio Giuseppe, con una forza nervosa e innaturale fuggiva con quel peso giù da basso, a cercare salvezza nel rifugio. Certe volte, Giuseppe, in braccio a lei, non era un peso docile, ma si dibatteva, piangendo, in risposta al dolore del loro cane, Blitz, che li accompagnava col suo lamento incessante, dietro la porta chiusa. Del cane, difatti, Ida non si dava nessuna pena, lasciandolo in casa durante gli allarmi, abbandonato al suo destino, ma lui, da parte sua, non si rassegnava allo strappo. Nino. Nino, quando era in casa, rideva di queste fughe di Ida e si rifiutava con disprezzo di seguirla nel rifugio, ma nemmeno la presenza del suo amore principale bastava a consolare Blitz, il quale, per tutta la durata dell'allarme, seguitava a correre avanti e indietro, dalla porta d'ingresso a lui, tornando a leccargli le mani, a riguardarlo negli occhi, coi suoi occhi marrone, appassionati e persuasivi, sempre insistendo in un suo lamento catastrofico. Per carità, andiamo con loro, così se loro si salvano ci si salva tutti, e se dobbiamo crepare, crepiamo tutti insieme. Alla fine Nino decise di accontentarlo. E da allora, tutte le volte che c'era in casa Nino, gli allarmi aerei diventarono occasione di divertimento, specie poi se capitavano di notte. Il peggior impazzimento era svegliare Nino, il quale faceva il sordo, scontroso, insonnolito, così che Blitz doveva riuscire, in certo modo, a buttarlo giù dal letto, e poi seguitava a sollecitarlo, mentre lui, tutto sbadigliante, si infilava la maglietta, i pantaloni, non senza bestemmiare e imprecare, pure contro i cani. Ma così, baccagliando e imprecando, intanto si svegliava del tutto. Poi si passava nella camera vicina, dove Nino rapido si caricava Giuseppe sulle spalle, a cavalluccio, e senza altro bagaglio, Nino, Giuseppe e Blitz volavano giù per le scale, distanziando Ida, che veniva dietro sola e brontolante, con la borsa stretta al petto. Frattanto, dalle altre porte e per il cortile, tutte le famiglie, in camicia, in sottabito, coi pupetti in braccio e strascicando le valigie per le scale, andavano correndo verso i rifugi, e sopra le loro voci già si avvicinavano i boati della flotta aerea, con un seguito di spari e di lampi e di scoppi pari a un bengala formidabile. Si sentivano d'intorno le famiglie chiamarsi, qualche ragazzino si sperdeva, qualcuno correndo inciampava, cadeva, certe donne urlavano, e Nino rideva, rideva di questa paura universale. Però quelle nottate in cantina non gli dispiacevano del tutto, anche perché laggiù si aveva l'occasione di incontrare certe belle ragazzette del vicinato, che lui di solito non poteva incontrare per via della gelosia delle famiglie. Però, come arrivava nel sotterraneo, lui non mancava mai di ostentare il proprio schifo, e tenendosi presso l'entrata, col dorso appoggiato contro la parete, in una posa sprezzante, faceva sapere all'uditorio, soprattutto ai ragazzette, che lui se fognava là sotto unicamente per cane suo, perché lui delle bombe se ne fregava, anzi le bombe gli mettevano allegria meglio dei petardi, e magari se fosse trattato d'allarmi veri, s'allarmi di Roma erano tutte commedie, già che era risaputo che per patto segreto dei giurci corpava, Roma era decretata città santa e intangibile, e le bombe qua non ci possono cascare, se potemmo solo magnà, viva Radio Onda Rossa, dai regà.